Conto alla rovescia. Cari ascoltatori di Conto alla rovescia, ancora buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nostro appuntamento con le notizie legate all'esplorazione spaziale e alla ricerca. Bene, oggi ripartiamo da Cape Canaveral, dove lo Shuttle Discovery, missione STS-133, proprio sembra non farcela. Insomma, rinvii continui, ora dei brutti segni sul serbatoio principale che rinviano ancora una volta la missione. Insomma, non si parte di sicuro prima del 17 dicembre. Intanto, dall'altra parte, nell'altra metà del cielo, si sarebbe detto una volta, proseguono intense le attività sul fronte russo. Venerdì scorso in Italia, rientro sulla dura steppa kazaka per la Expedition 25. Douglas Wikelock, comandante di Missione 25, l'ingegnere di volo Shannon Walker e il cosmonauta Fyodor Yurchichin sono rientrati raccolti nella loro capsula, hanno completato la loro missione. Si fa sempre più vicino dunque il tempo di partenza per Paolo Nespoli, lo ricordo, parteciperà con Magistra alla missione 26-27 che per la prima volta porterà un astronauta italiano 6 mesi in orbita. E ora parliamo della nuova generazione di astronauti appena diplomata nel Centro Spaziale Europeo di Colonia. Tra loro ci sono 2 italiani, dunque sentiamo subito in sequenza Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Che cosa soprattutto avete imparato in quest'anno? Difficile riassumerlo in una parola perché effettivamente la varietà è molta, si passa da nozioni teoriche in tutti gli ambiti sia scientifici che tecnologici a addestramenti più pratici, più operativi sui simulatori dei vari componenti della stazione per imparare a gestire la stazione che è un veicolo spaziale a tutti gli effetti. A corsi di sopravvivenza, di team building, di comunicazione. Una parte importante è stata la prefamiliarizzazione all'attività extraveicolare, quindi il lavoro in piscina, sott'acqua, nei mock-up, quindi nelle repliche dei moduli della stazione nella nostra piscina, il corso introduttivo alla gestione del braccio robotico della stazione, il volo parabolico, che poi è stata un'esperienza molto molto divertente. E poi in ultimo abbiamo passato 2 mesi a Mosca, Star City, dove abbiamo avuto la possibilità di provare una simulazione con la tuta pressurizzata addosso di lancio e di rientro della capsula Soyuz e avere una propria certificazione basica su tutta la parte russa della stazione. Continueremo al nostro addestramento. Un astronauta non smette mai di addestrarsi, di mantenere le sue capacità operative. Quindi inizia una frase di quella che si chiama addestramento pre-assegnazione. Qual è il sogno di Luca Parmitano? Beh, per me il sogno assoluto, quello che poi forse mi ha spinto sì da bambino in questa direzione, è quello di fare attività extraveicolare. Da sempre le passeggiate spaziali? Quelle cosiddette. Esatto, le cosiddette passeggiate spaziali, quelle in realtà di passeggiata c'è ben poco perché una missione extraveicolare dura tra le 6 e le 7 ore e c'è tantissimo lavoro, ma credo che queste immagini mi hanno accompagnato durante tutta la mia vita, la mia carriera, per cui credo che il sogno più forte, l'immagine più forte che c'è per me come astronauta è quella di un'attività extraveicolare, quindi fuori alla stazione, spero anche questo nel prossimo futuro. Notizie dall'Agenzia Spaziale Italiana. Space Mag, piccole imprese nello spazio. Venerdì scorso, riunione a Roma, sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, per una tavola rotonda sul tema delle PMI del settore spaziale. Sapete, l'abbiamo raccontato molte volte, il sistema spaziale è sì fatto di grandi strutture, di grandi organizzazioni, ma anche di una miriade di imprese di alta tecnologia che contribuiscono alla realizzazione dei sistemi, dei satelliti, dei vettori e così via. L'Italia in questo ha un ruolo molto molto importante. E infine ci prendiamo un minuto per ricordare quelli che sono i principali lanci previsti del mese di dicembre. Pensate, sono addirittura 11, alcuni davvero importanti. Segnalo senz'altro SpaceX di Elon Musk, il miliardario sudafricano ormai impegnato nell'attività spaziale. È previsto per il 7 dicembre il primo lancio di Dragon, quindi la navicella spaziale che sarà portata in orbita dal razzo Falcon 9. Due lanci indiani, quindi continua e direi si intensifica l'attività spaziale appunto dell'India, ma anche naturalmente il nuovo tentativo di STS-133, cioè l'ultima missione di Discovery, e naturalmente l'abbiamo già citato, la Soyuz che porterà in orbita Expedition 26-27. A bordo ci sarà naturalmente anche il nostro Paolo Nespoli. Bene, con questo abbiamo davvero concluso, vi auguro un ottimo fine settimana, l'appuntamento con Conto alla Rovescia è per domenica prossima. 3, 2, 1. We have ignition.